sono le ore 19:39 di giovedì 24 maggio 2018. I suoni che sentite in sottofondo non sono i soliti, è un mix tra i suoni reali della solita 600 di mio suocero, ma anche suoni altrettanto reali però registrati una settimana fa a Berlino, dove sono stato per i soliti incontri con il Fraunhofer Institute. Ho registrato in stereo dentro la S-Bahn, che è una ferrovia che io adoro di Berlino, anche solo per il fatto, non solo che funzioni così bene, ma per il fatto di essere sopraelevata e di permetterti sempre di vedere la città da un punto di vista impagabile, secondo me insuperabile. Questa cosa c'è quasi soltanto a Berlino, quantomeno con quella estensione. Anche a Londra esiste l'overground, anche in Francia ci sono tratti di metropolitana che corrono sopra il livello della strada, e tutto sommato anche a Roma abbiamo delle ferrovie urbane che hanno questo tipo di caratteristica, però nulla è come la S-Bahn di Berlino, dove addirittura diventa questa ferrovia che normalmente in qualsiasi altra città verrebbe percepita come una frattura, invece diventa uno strumento di comunicazione dei due lati della ferrovia, perché sotto la ferrovia ci sono negozi, locali, librerie, sotto le arcate proprio di questa costruzione c'è tutta una vita che brulica e che nessuno considera una vita di serie B per il fatto di essere sotto una ferrovia, come succederebbe tipicamente da noi. Comunque, al di là di Berlino, ieri sono successe cose molto importanti in Italia. È stato conferito l'incarico di formare un nuovo governo al professor Giuseppe Conte, e sicuramente ci sono molte cose di cui dobbiamo preoccuparci della deriva sovranista, populista che sta prendendo il paese, come fanno giustamente in molti, ma insomma questo è un tema che va avanti da mesi. Però stando invece proprio più sull'attualità, nelle ultime 24 ore è successo qualcosa, secondo me, almeno personalmente, sarà una mia deformazione professionale, molto più preoccupante. E cioè il fatto che non appena è stato fatto il nome di questo signore come del possibile nuovo premier, fino al momento dell'incarico, per circa 24-36 ore, su tutti i media non si è fatto che parlare dell'operazione cosmetica che il professor Conte ha fatto sul suo curriculum, che è indiscutibile, cioè ha notevolmente esagerato in tanti punti, e sicuramente questo non depone a favore. Però ecco, io credo che quando tutta la stampa, da Libero a Repubblica, si muove come un solo uomo per dire e fare la stessa cosa per un certo periodo di tempo, che poi finisce puntualmente nel momento in cui Mattarella dà l'incarico, quindi si capisce anche lo scopo dell'operazione, cioè evidentemente spingere, mettere pressione su Mattarella affinché cambiasse idea. No, ecco, quando vedi una cosa del genere, e non dico lo dovrebbe vedere l'uomo della strada, ma quantomeno le persone che si professano addetti ai lavori, persone che lavorano nel mondo dei media, cioè non notare questa precisione militare nel modo in cui si è svolta l'operazione, e anzi accodarsi e rilanciare quel messaggio ancora per 24-36 ore, perché poi al traino dei media, tutti gli opinion maker digitali, analogici, di qualsiasi foggia orientamento politico, tutti all'unisono si sono cimentati nel gioco non solo del rilancio, ma poi anche dello scherno, del dileggio, del meme. Si è parlato solo ed esclusivamente di questo, in uno snodo poi così importante per il paese, indubbiamente. Ecco, però, quando succede questo, quando una stampa che si professa libera e tante persone che magari pensano di contribuire a un dibattito vario e subiscono in questo modo l'agenda dell'informazione definita in 4-5 stanze in totale, nonostante ci sia uno strumento come internet che ti darebbe delle alternative, no? Per fare una riflessione magari diversa. Ecco, io credo che questo sia profondamente preoccupante e ci fa capire ci offre davvero molti elementi per capire come mai la maggioranza degli italiani, non io, ma la maggioranza degli italiani, ritiene preferibile il finto nuovo di cui parla oggi in un editoriale Mario Calabresi, un nuovo così opaco, così preoccupante, con queste procedure, diciamo, da democrazia giocattolo, con queste agenzie di guru della comunicazione che sembrano orchestrare tutto il teatrino. Ebbene, nonostante questo, per la maggioranza degli italiani è preferibile tutto questo rispetto a quello che c'era prima, e quindi nessuno che prova a dare un'altra chiave e a farsi altre domande: ma quanto poteva aver fatto schifo la politica prima per rendere preferibile tutto questo? Ecco, questa è la domanda a cui nessuno prova mai a rispondere, se non dicendo semplicemente, esplicitamente o implicitamente, con più o meno coraggio, che la colpa è degli elettori, che è un'altra simpatica argomentazione che, una volta che accetti la democrazia, non puoi banalmente, perché è controintuitiva. Ecco, io non pretendo, ripeto, che la persona che incontri al bar sollevi questo tema, ma quantomeno chi si occupa di media, un minimo di sensibilità e un minimo di preoccupazione dovrebbe manifestarla.